Qualche giorno fa, martedì 23 marzo per la precisione, la Corte d'Appello di Milano ha confermato la condanna di Maria Grazia Cadeddu, Patrizia come preferisce farsi chiamare, militante del laboratorio anarchico di Via De Amicis, accusata, come ricorderete, di essere la postina di Radio Popolare. Come a dire, la donna che un paio d'anni fa abbandonò davanti alla porta della nostra emittente la rivendicazione dell'attentato compiuto in quei giorni a Palazzo Marino, facendosi riprendere dalla telecamera della sicurezza. Come abbiano fatto a condannarla prima e a confermarle la condanna dopo, proprio non saprei dirvi, visto che lei ha sempre negato l'addebito e che l'unico elemento utile per la sua identificazione, l'unica prova, come si dice, disponibile contro di lei, consiste nella registrazione di quella telecamera. Una registrazione così mal riuscita, così evidentemente illeggibile, che al processo l'hanno presentata in una versione rielaborata elettronicamente, che per quanto rielaborata era ancora meno leggibile dell'originale. Però l'hanno condannata lo stesso e ciascuno potrà riflettere per conto suo sul perché. Se non altro, in appello le sono state riconosciute le attenuanti generiche, il che ha portato la pena dai 5 anni originali a 3 anni e 9 mesi, metà dei quali abbondantemente scontati, una riduzione che in base alle leggi vigenti avrebbe dovuto consentirne la scarcerazione immediata. Avrebbe dovuto, sì, avrebbe dovuto, perché invece, martedì scorso, prima che la Corte si ritirasse per la sentenza, l'imputata, a cui era stato chiesto come d'uso se avesse qualcosa da dichiarare, l'ha fatta proprio grossa. Ha ribadito la sua innocenza, il che agli occhi di certi giudici è già colpa grave, e ha aggiunto che comunque, dentro o fuori dal carcere, lei sarebbe restata l'anarchica di sempre. E non molti presenti hanno applaudito, il presidente, tale dottor Gnocchi, seccatissimo, ha fatto sgombrare l'aula, e un paio d'ore dopo, usciti i giudici dalla Camera di Consiglio, ha pronunciato un'ordinanza che nega a Patrizia la scarcerazione, in quanto a suo avviso esiste il pericolo di reiterazione del reato, il che si desumerebbe proprio dalle parole che la Cadeddu aveva pronunciato dalla gabbia, parole che, nella prosa del giudice, confermano la sua appartenenza alla parte politica che realizzò l'attentato. Come a dire che anche se l'associazione automatica tra anarchismo e sovversione dinamitarda è ormai soltanto un relitto del folklore ideologico, per quella Corte basta dichiararsi anarchici per essere esclusi dai diritti che la legge riconosce agli altri cittadini. Nessuno a quanto pare si è stupito per la decisione. I giornali ne hanno dato conto in trafiletti microscopici, in uno dei quali sul Corriere della Sera l'autore si permette persino di fare dello spirito, scrivendo tutto soddisfatto che l'imputata ha salutato con un viva l'anarchia la mamma e i 30 compagni presenti in aula, compagni chissà perché scritto tra virgolette, e poi è tornata in cella. A tutti evidentemente sembra normale che una dichiarazione d'appartenenza politica anomala da parte di un imputato venga considerata in pratica una colpa da punire. A tutti sembra normale che il nostro paese, che proprio in questi giorni, come 58 anni fa, partecipa, oggi come allora in posizione subordinata, a un'aggressione militare, disponga, oggi come allora, di un tribunale che giudica i nemici dello Stato sulla base della loro appartenenza politica. Con la differenza che allora, sotto il fascismo, questo compito era deferito a un piuttosto sinistro tribunale speciale, mentre oggi vi provvede in via assolutamente normale una corte d'appello qualsiasi. Al peggio non c'è mai fine. Il fatto è che quando si tratta di imputazioni politiche, ma non solo, è da troppi anni in Italia i tribunali tendono a giudicare e a sancire più che i singoli fatti i comportamenti processuali e ideologici degli imputati, che devono accettare la colpa imputatagli per prima cosa, devono pentirsene debitamente, devono dimostrare il proprio pentimento mediante un'attiva cooperazione con la giustizia, che è un eufemismo per dire fare i delatori, devono promettere che non lo faranno più, rinunciando, se del caso, alle proprie scelte ideologiche. Sono i frutti avvelenati, lo sappiamo, della legislazione d'emergenza, delle scelte compiute in nome della lotta al terrorismo negli anni di piombo e ribadite in seguito, quando ormai il terrorismo e la lotta armata erano solo un brutto ricordo, perché senza pentiti e senza legislazione premiale la magistratura non era evidentemente più in grado di assolvere alle proprie funzioni. Chi volesse ripercorrere il percorso che ha portato a questa situazione può farlo oggi grazie all'appassionato pamphlet che Paolo Persichetti e Oreste Scalzone hanno pubblicato da poco con il titolo Nemico inconfessabile per l'edizione Obradec di Roma. Quel volumetto in realtà non affronta il problema dell'innocenza degli imputati, anzi, a buon gioco del mettere in luce la malafede e la strumentalità di molte dichiarazioni di innocenza ideologica. Ma questo non toglie che oggi in Italia per un imputato proclamarsi innocente, soprattutto in riferimento a dei fatti concreti, sia molto pericoloso. Capirete anche voi che è innocente non ha niente da cui pentirsi, non ha niente da scambiare in cambio della propria libertà, non può compiere nessuna abiura. E la biura, a quanto pare, è condizione indispensabile, sia pure non sufficiente per accedere a questo tipo di mercato, che significa, in ultima analisi, la pretesa di controllare le coscienze e di imporre a tutto il corpo sociale le stesse scelte ideologiche. Come ben si dice, in fondo, un paese in guerra.